Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gabriele Lavia, regista e attore del film L'uomo dal fiore in bocca, in esclusiva su RaiPlay, in prima visione a partire da giovedì 30 dicembre 2021. Ben trovato! Buongiorno a voi! Che avventura è questa? È stata una bella avventura. La produttrice Manuela Cacciamani mi è venuta a trovarmi e mi ha chiesto se volevo fare un film dall'uomo dal fiore in bocca. Io l'ho sconsigliata subito perché ho detto: perché vuoi fare un film dall'uomo dal fiore in bocca? È un pezzo di teatro. E dice: no, le suggerì altre cose, ma lei si impignò, come si dice a Roma, e così abbiamo fatto questo film. Guardandolo, alla fine posso dire che non mi vergogno quando lo rivedo. Ecco, in genere uno quando rivede le proprie cose nutre un sentimento di vergogna. Questa volta no, penso che sia venuta una cosa buona, una cosa seria, ecco. Per chi non conoscesse la storia, di cosa si racconta? È un atto unico che Pirandello scrisse per il grande attore e suo caro amico Ruggero Ruggeri e dura in tutto 7 minuti. Ora, quando io lo feci in teatro, ne feci uno spettacolo di 1 ora e mezza, 1 ora e 20, non mi ricordo, ma lo interpolai con tantissime novelle che in qualche modo raccontano la poetica di Pirandello e anche questa edizione, sia pur ristretta rispetto all'edizione teatrale che ne feci, ha come centro narrativo l'atto unico, l'uomo dal fiore in bocca, cioè la storia di un uomo che è condannato a morte da un tumore, da un epitelioma sul labbro, ma intorno a questo nodo, a questo centro, a questo fulcro narrativo, ci sono tanti pezzi di altre novelle che raccontano la vita dell'uomo in maniera, come sempre Pirandello, molto ironica e tragica nello stesso tempo. Rispetto ai due livelli, come era stata la messa in scena teatrale e come quella cinematografica? Sono due cose completamente diverse, perché quella teatrale si apre il sipario e c'è un posto che non cambia mai, invece quella cinematografica si svolge in una metafisica enorme, fatiscente, lurida sala d'attesa, vista come la sala d'attesa dell'uomo, che è una smisurata sala d'attesa della morte, e poi c'è un altro luogo adiacente alla stazione vera e propria, e poi c'è la stazione con i binari e con tutto quello che ci deve essere in una stazione dove c'è un signore che viene di corsa a prendere il treno e lo perde, si capisce che non lo prenderà mai. È arrivato, come si dice, all'ultima stazione, anche quell'uomo. E a livello simbolico, l'ultima stazione, la morte. Cosa apprezzi della scrittura di Pirandello, di questa novella? Pirandello, posso dire che è uno dei miei autori preferiti. Io ho letto tutte le novelle di Pirandello, che sono un'enormità, un'infinità. È un autore che conosco abbastanza bene, lo apprezzo, è un genio. Ecco, io adesso sto facendo il berretto a Sonagli. Basterebbe la famosa battuta di Ciampa sulle tre corde, la corda seria, la corda civile e la corda pazza, per fare di un autore un grandissimo autore. Pirandello è uno dei grandi autori della storia dell'umanità. Insomma, sta con Shakespeare, con Eschilo, Sofocle, Euripide, Chekhov, Strindberg, Ibsen, Molière, quegli autori di teatro senza i quali non ci sarebbe. esiste nemmeno il teatro, perché il teatro non esiste, perché ci sono alcuni che scrivono, riempiono delle pagine con su scritto il nome del personaggio e poi quello che segue. Il teatro nell'umanità, in mezzo alla società che noi siamo e che certamente è la cosa più importante che l'uomo abbia inventato. Dice, ma la televisione viene vista di più. Sì, ma uno è un uomo anche se non c'è la televisione. Invece, se non ci fosse stato Eschilo, Sofocle, Euripide, Shakespeare, Strindberg, Ibsen, Molière, Grandet, l'uomo non si sarebbe mai visto rappresentato, non saprebbe nemmeno chi è. Dice, ma io non sono mai stato a teatro. Non ha importanza questo. Ma sai che c'è? Non ci vado perché sono pigro, perché credo di non avere il vestito giusto per andarci, perché penso che mi annoierò, perché penso di sentire tante parole che non capisco, perché di fondo amo la mia ignoranza. Perché la società umana è fatta anche così. Cosa dice Pirandello? Pupi siamo. Lo spirito divino entra dentro di noi e si fa pupo. Pupo io, pupo lei, pupi tutti. E non basta che Dio ci abbia creati pupi, poi ci facciamo pupi per conto nostro e ogni pupo vuole portare il suo rispetto. E ha detto tutto, è un genio, è un grande poeta e ha vinto il premio Nobel d'altra parte. Il film avrà una fruizione esclusivamente televisiva o ci sarà anche un passaggio cinematografico? Non lo so, escludo che ci sia un passaggio cinematografico perché comunque è un film di un testo teatrale. Già nessuno va a vedere i film normali, non è che adesso dice le sale cinematografiche sono gremite di gente, no? Negli anni 50, negli anni 60, quando ero ragazzo io, fino a un certo momento i cinema sono stati pieni, a un certo momento il cinema non è stato più pieno. La pellicola non c'è più, è tutto diverso, la macchina da presa è un cosino piccolissimo ormai, non è quelle belle macchine da presa con cui hanno girato Via col vento, Jules et Jim, il dottor Zhivago, la strada, non è più quella roba lì, è una robetta tecnica e la tecne ha una forza incredibile, è la cosa più forte che esista a questo mondo, la tecnica ha il potere di distruggere la tecnica precedente e tecnicamente la macchina da presa è superata e quel mondo non c'è più. Il teatro si fa così dal V secolo avanti Cristo. Invece di avere il fuoco ci sono degli altri apparecchi che si chiamano proiettori per fare la luce, ma è sempre quella storia lì. Ci sono dei signori con la maschera vera o con una maschera metafisica che si muovono e dicono parole con un volume un po' più forte. Gli attori cani usano il microfono, il microfono è una tecnica e tutto ciò che è tecnico ha un grande potere, cioè di uccidere. Il microfono ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina che si chiama altoparlante che poi i fonici mettono anche male. Il pubblico queste cose non le capisce, sente delle cose strane, non sa dire perché c'è qualcosa che non funziona. E gli attori italiani, quasi tutti, ormai vivono con questo parassita, che è questa pallina sulla guancia, che è un microfono che amplifica male la voce. Il film L'uomo dal fiore in bocca su Rai Play in prima visione a partire da giovedì 30 dicembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista e attore Gabriele Lavia. A presto. Bene, buon anno, tante auguri. Cose, state bene, auguri, tante cose. Con Costanza Quatriglio per presentare il documentario di un gruppo di allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia Sede Sicilia sotto lo stesso tempo su Rai Play in prima visione esclusiva da sabato 8 gennaio 2021. Bentrovata! Grazie, bentrovato e bentrovati tutti. Centro Sperimentale di cui sei direttrice artistica, ci racconti del progetto? Questo è un film collettivo, un lungometraggio che è iniziato nel marzo del 2020 con i ragazzi del corso di primo anno che erano chiusi in casa praticamente, avevano appena cominciato la scuola da qualche settimana, da pochissimi giorni, e non avevano, chiaramente essendo di primo anno, così ancora fatto molto, ecco. Chiusi in casa ci siamo avventurati in questa impresa che è diventata un'impresa titanica, cioè di filmare per un anno e mezzo questo anno, le loro vite, tutte le loro storie private, personali, pubbliche, intrecciando con la storia di tutti quanti, è venuto fuori questo diario, che è un diario collettivo di cui siamo molto orgogliosi, siamo molto felici. È un film che abbiamo molto amato e sostenuto, che è andato al Festival di Torino adesso a novembre in una sezione molto bella che si chiama L'incanto del reale, ed è appunto con Sguardo incantato che abbiamo raccontato questo tempo di pandemia attraverso queste vite di ragazzi di 20 anni, ecco. Com'è nata l'idea? Sostanzialmente perché dirigendo una scuola di cinema ti trovi chiusa in casa e dici: io devo trovare delle alternative. Noi chiaramente avevamo già fatto tutto un programma didattico, un calendario, docenti, questo e quello, e quindi come tutto il mondo in lockdown, in chiusura, mi sono detta: qui dobbiamo reagire. E così ogni giorno abbiamo cominciato a lavorare sulla concezione del tempo, su questo tempo che era un tempo sospeso, sradicato, e poi questo tempo sospeso è diventato per i ragazzi il loro tempo interessante. A un certo punto mi ricordo Marta Basso, un'allieva, in queste Zoom che duravano ore, e ha detto questa cosa bellissima di questo tempo interessante, cioè che significa un tempo interessante quando sei chiuso in casa, e le loro vite sono esplose, i racconti delle loro vite sono diventati racconti epici e le loro vite si sono intrecciate con le vite di tutti, quindi anche con l'immaginario pandemico che si faceva attraverso la televisione, le immagini del Papa da solo, San Pietro, e poi questo e poi quello, e piano piano questo racconto è diventato una cosa importante. E poi a un certo punto, dopo quasi un anno, loro hanno fatto altri film e la genesi degli altri film è entrata in questo film. Quindi sono delle vite attive dentro un momento storico che ci ha messo molto alla prova. Com'è stata la lavorazione? In che modo tu sei intervenuta? Io sono intervenuta sicuramente nel ruolo, nello specifico di docente, oltre a quella della direttrice artistica della scuola. Perché dico questo? Perché normalmente noi abbiamo i nostri docenti, docenti di produzione, di regia, di sceneggiatura, questo, quello, eccetera. In questo caso mi sono presa io sulle spalle anche la supervisione, ecco, diretta, ecco, del film, lavorando di concerto con Letizia Caudullo, docente di montaggio, e Piero Lidoni, che è stato il tutor, diciamo, del corso, che abbiamo seguito in tre questa cosa molto molto molto da vicino, ecco. Quindi sai, quando insegni la cosa più importante è non sostituirti mai ai ragazzi, far sì che siano loro a tirare fuori la loro voce, le loro anche sicurezze e insicurezze, i loro sbagli. Quello che devi fare tu è accompagnare a tirare fuori il meglio possibile, in un momento in cui c'era anche una tendenza all'abbattimento, allo scoraggiamento, no? Eppure non si sono mai scoraggiati, sono stati bravissimi, secondo me siamo stati bravissimi, molto pazienti, e è uscito fuori un film che racconta veramente la vita di questi ragazzi vent'anni, che tutti parlano di ventenni, giovani, giovani, ma questi giovani ce l'hanno o non ce l'hanno una voce? Loro ce l'hanno. Guardandolo ultimato, che impressioni ne hai ricevuto? Che ritratto viene fuori? Viene fuori un ritratto di una generazione che ha molto da dire, ma nello stesso tempo anche una generazione che si sta confrontando con la morte molto presto, e quindi ci interroga tutti quanti su come affrontare questa idea della morte incombente nelle vite di tutti i giorni, anche in giovane età. E questa è una cosa molto vera. Il film è un film allegro, un film vitale, pieno di energia, di gioco, di amore, di sentimenti, ci sono un sacco di cose dentro. Nello stesso tempo però è chiaro che c'è comunque un cielo, ecco, che condividiamo tutti, che è oscuro, ecco. E questa cosa bisogna tenerne conto, ecco. I ragazzi sono fragili e potentissimi se tirano fuori le loro aspettative, i loro desideri, e se sono anche aiutati in questo, se non sono lasciati soli. Per saperne di più, per tutte le informazioni, sul sito del Centro Sperimentale? Centro Sperimentale di Cinematografia, sì, c'è il sito con tutte le informazioni, e poi dall'8 gennaio su RaiPlay ci sarà, oltre al film, anche, io penso, le informazioni sulla storia, sui ragazzi, chi sono tanti, sono 10, l'hanno fatto, è un film collettivo, lo firmano in 10. Il documentario Sotto lo stesso tempo su Rai Play in prima visione esclusiva da sabato 8 gennaio, documentario di un gruppo di allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Costanza Quatriglio. A presto. A presto, grazie. Con Matteo Botrugno, co-regista del documentario C'è un soffio di vita soltanto, al cinema da lunedì 10 gennaio 2022. Ben trovato! Ciao, ciao, grazie per l'invito. Cosa racconta? Il film racconta una storia molto particolare di questa signora quasi centenaria che vive a Bologna, che è l'ultima sopravvissuta italiana del campo di concentramento di Dachau. Solo che quando era a Dachau nel 45, è stata prigioniera a Dachau, questa signora era ancora Luciano Salani. E quindi questa diventa la storia della più anziana transessuale d'Italia e di tutta la sua vita rocambolesca, con le sue avventure, con le sue disavventure, le sue anche tragedie personali e anche i suoi piccoli momenti di gioia, soprattutto nei momenti in cui lei è riuscita a costruirsi una famiglia, per quanto alternativa, per quanto non conforme, soprattutto ai tempi, ma insomma ci sono anche dei momenti un po' più sereni nel film, oltre al racconto del campo di concentramento. Come nasce tutto? Perché Daniele Coluccini, il mio co-regista, un giorno mi manda un messaggio con un link di Facebook. Dice: guarda, stavo facendo lo scroll, no? Sai, dei video, quando uno guarda un po' in maniera così automatica un po' di video su Facebook. E in questo messaggio mi ha detto: guarda questa signora. E abbiamo subito capito che c'era un grosso potenziale, perché era una piccola intervista un po' amatoriale sulla storia di questa transessuale che era stata in un campo di concentramento. Così abbiamo deciso, tramite una serie di giri assurdi, di andarla a cercare. L'abbiamo trovata nella periferia bolognese, l'abbiamo conosciuta e siamo andati lì. Ci siamo conosciuti, lei ci ha studiati un po', perché all'inizio, poi ce l'ha detto dopo, che ha detto: questi saranno i soliti rompi scatole. Questo è quello che ha pensato all'inizio di noi, perché molte persone la avvicinano un po', sai, per proprio interesse personale. E invece poi alla fine ci siamo legati talmente tanto con lei che praticamente è diventata nostra nonna. E siamo andati lì e poi abbiamo girato un'intervista fiume di 12-13 ore in 3 giorni. Però poi abbiamo capito che la direzione del film doveva essere per forza diversa, perché questa vita così particolare, così speciale, la volevamo raccontare in una maniera diversa. Non volevamo il classico documentario intervista con lei che parlava alla camera e con i filmati di repertorio che andavano tra un taglio e l'altro di montaggio. Abbiamo deciso comunque di fare un film che un po' riprendesse dalle nostre esperienze personali precedenti, dei primi due film nostri, che però non sono documentari, ed Interna Pax e Il Contagio, e poi invece di sperimentare anche un po' di linguaggio documentario, ma facendo in modo che lei si raccontasse sempre a qualcun altro e che seguissimo la sua vita anche come adesso, non solo che raccontassimo solamente il suo vissuto, ma anche com'è la vita di una transessuale di 100 anni. E quindi abbiamo mischiato tutte queste cose, abbiamo unito i punti come in un puzzle, l'abbiamo improvvisato e abbiamo cercato di comporre con le varie parti che avevamo tutti i pezzi di questa vita incredibile. Ecco, quali sono gli aspetti che più ti hanno impressionato? Ce ne stanno tanti, però sicuramente quello che ha impressionato di più sia me che Daniele è la forza incredibile di questa persona, perché lei, fin da quando era ancora un bambino, si è sempre sentita donna e lei ha sempre in qualche modo lottato per l'affermazione della sua identità e ha sviluppato anche un pensiero che prevede che ognuno debba essere libero di esprimere la propria identità. E sembra una cosa abbastanza normale, ovvia e anche tutelata in parte adesso, quella della tutela e della libertà personale di ognuno di noi. Ai tempi di Lucy questo non era preso neanche in considerazione, e consideri che il fascismo è arrivato, che Lucy già quando aveva più o meno 3, 4, 5 anni, che il fascismo era già arrivato, quindi lei è nata con una mentalità del genere. Oltretutto consideriamo che erano anche altri tempi, e quindi non solo questa forza, questa resistenza dell'autodeterminazione della propria identità ci ha colpito, ma ci ha colpito anche la modernità del pensiero di Lucy. Adesso noi siamo abituati a tante nuove idee, a tante definizioni, a tante cose che servono a spiegare ancora meglio la realtà. Non esiste più omosessuale, transessuale, esistono anche tanti altri colori delle varie identità dell'individuo, queer, non binary. Si parla tanto adesso di questi argomenti, come è giusto che sia, ma lei già aveva dentro di sé queste idee che sarebbero venute solamente decine di anni dopo. Lei già pensa così ed è emblematico il fatto che nel film, a un certo punto, perché lei ha tenuto il suo nome maschile, e dice: perché una donna non si può chiamare Luciano, perché no? In effetti è così, cioè nel senso non è un nome o non sono i genitali che fanno l'identità di una persona, ma è quell'identità stessa, e soprattutto l'identità è molto elastica, è un qualcosa di flessibile, un qualcosa che non può essere bianco o nero. Ecco, questa sua modernità unita a questa sua forza, a questa sua resistenza nel lottare per la propria identità, questa è la cosa che ci ha colpito di più. Che forma distributiva avete scelto? Indipendente, per una serie di ragioni, un po' legate al fatto che volevamo uscire dopo il Festival di Torino, dove abbiamo avuto la prima mondiale, un po' anche per il Covid che rende tutto un po' più complicato, soprattutto per quanto riguarda un documentario che comunque, a meno che non sono grandi nomi del documentario, faccio un esempio, Rosi, che esce come un film di finzione, e noi dobbiamo uscire con degli eventi per fare in modo di esserci, di fare in modo di poter partecipare col pubblico in maniera tale da poter attirare più persone possibili. E in questo caso noi abbiamo innanzitutto 3 giorni, 10, 11 e 12 gennaio, in cui usciremo a Roma al Farnese, Milano al Cinemino e Perugia al Cosmo del Vizio. Dopodiché saremo il 27 gennaio, il giorno della giornata della memoria. In contemporanea usciremo sia su Sky che saremo in sala a Bologna, e poi stiamo organizzando delle altre proiezioni. Sarà un'uscita molto non concentrata solamente in quei 3 giorni, ma sarà all'interno di diversi mesi in cui andremo e seguiremo il film, perché abbiamo scelto questa forma indipendente, perché pensiamo che sia quella più utile per questo tipo di documentario. Per seguirlo ci lasci dei riferimenti web? Sulle nostre pagine Instagram e le nostre pagine Facebook, Matteo Botrugno, Daniele Coluccini, sono i nostri nomi, sono le nostre pagine personali. Su Facebook abbiamo anche una pagina insieme, che anche quella è Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, quindi è estremamente semplice. Lì scriveremo tutte le informazioni, le notizie, i vari tour che faremo da fine gennaio in poi, Covid permettendo, i vari giri d'Italia che faremo, e soprattutto se qualcuno è anche interessato a una sala e magari su un territorio un po' più piccolo, o che magari insomma è un po' escluso da questo tipo di distribuzioni che in questo momento stiamo facendo in città più grandi, può contattarci e ne parliamo. Il documentario C'è un soffio di vita soltanto, al cinema da lunedì 10 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento al coregista Matteo Botrugno. A presto. Grazie. A presto, grazie. Con Pedro Armocida, per i 5 film del 2001, tra quelli usciti in sala, per le nostre preferenze personali. Pedro, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Auguri. Auguri anche a voi. In questa situazione complicata per il paese, poi a cascata, come dicevamo prima, per il cinema, con la sofferenza delle sale, ci è sembrato buona cosa comunque dare un segnale. Cosa ci dici? Facciamo anche un bilancio di quest'annata. Ma il bilancio devo dire che è molto positivo. Poi va bene, ogni anno, tranne l'anno scorso, ci ritroviamo in queste condizioni, nel senso che per me è sempre complicato ridurre a 5 titoli, però devo dire che quest'anno, anche col fatto che le sale sono state aperte non tutti i 12 mesi, devo dire che il livello anche, no, di proposte, anche pensando a un festival che siamo riusciti bene o male a seguire bene, che è quello di Venezia, ci sono state delle proposte qualitative molto alte, e anche, come dire, questo colpo di coda finale con alcune uscite più recenti hanno completato secondo me un anno molto interessante da questo punto di vista. Devo dire forse più in ambito internazionale che italiano, anche se comunque anche lì diciamo ci sono state parecchie proposte interessanti. Però ecco, se dovessimo fare dei discorsi così un po' complessivi, che poi lasciano il tempo che trovano, però ecco, mi sembra che, a dispetto del fatto che ci sono state grosse problematiche sulla fruizione in sala, da un altro punto di vista la qualità dei film è stata molto molto interessante. Nonostante anche l'intasamento e le uscite lampo, però comunque sì. Senza parlare delle piattaforme, che lì veramente sta diventando quasi impossibile seguire tutto, quindi anche lì la proposta è molto molto ampia, ecco, forse più quantitativa che qualitativa. Procediamo. Inizierei da un film che rispecchia anche una cinematografia, quella francese, che è il discorso che stiamo appena facendo, mi sembra molto